Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, una buona giornata anche oggi per modo di dire, a giudicare da quello che sta accadendo sui mercati finanziari. La Grecia continua a tenere in ansia i mercati, ieri l'ansia si è trasformata di nuovo in paura e un po' per la verità anche questa mattina, anche se adesso vedo un quadro che sta un po' allentando questa tensione di cui stiamo parlando. Abbiamo riepilogato da ieri pomeriggio a questa mattina più volte quello che è accaduto, anche il nostro Oscar Giannino è tornato sulla questione di una possibile bancarotta della Grecia e le problematiche connesse anche alle responsabilità tedesche e quant'altro. Tutto è cominciato ieri quando il ministro delle finanze greco, Papa Costantino, ha annunciato che il paese non riesce più a collocare i titoli del debito pubblico e dunque non potrà fare a meno degli aiuti di Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea, aiuti sui quali, come sapete, c'è forte disaccordo. Ieri la borsa di Atene ha reagito con uno scivolone pesantissimo, ha perso il 7%, le borse europee ne hanno subito tutte le conseguenze, a fine sessione hanno mandato in fumo qualcosa come 160 miliardi di euro di capitalizzazione, ne ha risentito anche la moneta unica, con l'euro che è sceso ai minimi da un anno, stamattina è finito a 1,3140, quindi sotto la soglia di 1,32, che peraltro sta recuperando adesso, quindi vi do anche quest'altra buona indicazione. E poi non è finito, perché ieri, dopo la chiusura dei listini azionari europei, è arrivata l'altra doccia fredda con l'agenzia di rating Standard & Poor's, che ha tagliato a livello junk, cioè spazzatura, immondizia, il merito di credito di Atene. Quindi il governo appunto si è trovato evidentemente anche per questo in difficoltà maggiore, ma la riduzione di giudizio è arrivata anche per i titoli del debito pubblico del Portogallo. Allora, noi ritorniamo sulla questione stamattina, ovviamente con un approccio diverso rispetto alla trasmissione di Oscar Giannino e anche per esempio a Focus Economia di Sebastiano Barisoni, perché cercheremo sì di commentare un po' la situazione in termini generali, ma soprattutto cercheremo di dare qualche suggerimento di buonsenso ai risparmiatori, alcuni dei quali naturalmente stamattina si sono un po' preoccupati, ma anche ieri. E allora, muovendoci in linea anche con quanto hanno fatto alcuni giornali, cercheremo di capire come poter fare un piccolo check-up del proprio portafoglio in questo momento per verificare se per esempio abbiamo investito in un fondo obbligazionario che abbia un'esposizione sui titoli greci o portoghesi o su titoli comunque a rischio, come muoverci in questa nuova tempesta che sta investendo soprattutto il mercato obbligazionario. Ne parla stamattina sia il Sole 24 Ore con uno specchietto molto accurato, curato dal nostro Maximilian Cellino, che tra un po' ci raggiungerà in redazione, quindi queste indicazioni ce le faremo dare da lui. E poi c'è anche Repubblica con una bella pagina di Massimo Riva su bond, azioni e monete, ecco come muoversi nella nuova tempesta, guardare ai beni rifugio ma con cautela. E poi ci faremo spiegare anche un po' meglio quello che è successo in queste ultime ore, per capire magari anche come muoverci nelle prossime. E i nostri ospiti di questa mattina sono intanto un amico di Salva Danaio, Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini SITS. Drusiani, buongiorno, benvenuto. Grazie di nuovo a voi, da noi. E una new entry invece per la nostra trasmissione, quindi gli diamo il benvenuto ad Andrea Mognon, gestore di Banca Zarattini & Co. Mognon, buongiorno. Buongiorno, grazie. Quindi riflettori puntati sia sulla borsa ma anche soprattutto sul mercato obbligazionario. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, le vostre domande, i vostri quesiti rispetto a questa situazione. 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Allora, lo dicevo anche prima nel giornale radio, intorno alle 11.30 le borse hanno toccato il picco minimo della seduta di oggi. Milano è arrivata a perdere quasi 3,5 punti. Oltre 2 punti era il ribasso di Parigi, ha sfiorato i 2 punti di calo Francoforte. Londra è stata la più moderata e anche adesso continua ad esserlo, perde lo 0,7%, quindi il quadro si sta leggermente alleggerendo, si sta un po' migliorando rispetto appunto all'attenzione della mattina, ma di fatto ancora le borse scendono tutte. E vorrei ricominciare appunto a spiegare un po' quello che è successo nelle ultime ore con i nostri ospiti. Angelo Drusiani, diciamo che la doccia fredda di Standard & Poor's, che ha declassato il titolo del debito pubblico greco, ha ovviamente scatenato veramente definitivamente una situazione che ieri era già stata precaria per tutta la giornata. Ci può spiegare, per chi non lo sapesse, che cosa vuol dire attribuire ad un titolo del debito pubblico di qualsiasi paese questa etichetta, cioè junk, spazzatura, così almeno spieghiamo un po' anche un po' di ABC finanziario Facciamo un po' di ABC finanziario anche ai nostri ascoltatori, per chi non avesse una grande praticità con questi argomenti. Quindi perché la situazione è stata giudicata così grave proprio ieri? La situazione è stata considerata grave perché il ministro a cui lei faceva riferimento ha fatto capire che la Grecia non sarebbe in grado di collocare sul mercato i titoli se non a condizioni disastrose, ad esempio 2 anni oggi dovrebbe pagare quasi il 20%, che è una situazione insostenibile. Di conseguenza le agenzie di rating hanno ritenuto che l'eccessivo debito rispetto al prodotto lordo che la Grecia è in grado di ottenere, fra l'altro poi siamo in una situazione abbastanza complessa per quanto riguarda la Grecia, non sarebbe sostenibile, di conseguenza il rischio di insolvenza è considerato molto più alto di quanto lo fosse qualche tempo fa. Cosa significa junk bond o titoli o rating non investment grade? Significa che è un grado di rischio, una percentuale del grado di rischiosità dell'emittente molto superiore alla media. Quindi cosa succede in questi casi? Che molti investitori istituzionali non sono autorizzati a comprare titoli con un grado di affidabilità così basso, cioè un grado di affidabilità molto basso induce molti investitori a rifiutare l'acquisto di questa tipologia di titoli. Ecco, questo è naturalmente un atteggiamento che deve riguardare soprattutto, io lo vorrei esprimere questa raccomandazione in maniera molto intensa oggi ai nostri ascoltatori. È bene che siano alla larga da questi titoli, a meno che non abbiano una propensione a rischio elevatissima, perché non vorrei che succedesse come è successo 2 anni fa con Alitalia, quando il governo aveva detto molto chiaramente che avrebbe salvato la compagnia di bandiera e c'è stata una gara all'acquisto delle azioni all'Italia del tutto spregiudicata, ingiustificata da parte di qualcuno che poi ne ha pagato duramente le conseguenze. Ora, non lo so quanto è probabile che l'Unione Europea, d'intesa con il Fondo Monetario Internazionale, siamo in attesa di questa conferenza stampa delle 14:30 di Trichet, del direttore del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn, del ministro delle finanze tedesco, appunto per stabilire un po' quale potrebbe essere la strategia di sostegno alla Grecia in queste ore, nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Detto questo, sull'ipotesi di salvataggio non deve indurci ad un atteggiamento sbagliato nei confronti di questi titoli. Questo per lo meno una raccomandazione che do io, poi ognuno può fare quello che vuole, che non si dica poi fra qualche mese che magari qualche gestore o i giornalisti non avevano raccomandato una sufficiente prudenza intorno ad un asset class come questa, che in questo momento è molto rischiosa. Questo vale per i titoli greci come per quelli portoghesi. Allora io non so, Andrea Mognon, la faccio intervenire subito su questo punto, è d'accordo con me oppure possiamo addirittura avere un atteggiamento spregiudicato adesso nei confronti di questi titoli? No, io credo mi conforti. No, io sono assolutamente d'accordo. Credo che soprattutto in questo momento in cui la crisi si sta svelando per quello che è, sia molto pericoloso andare ad investire sperando di ottenere risultati, ritorni di questo genere, rischiando pochissimo. In realtà, fino a che la crisi, che non verranno chiariti come si potrà uscire da questa situazione, non c'è nulla di chiaro. E onestamente credo che non sia, se un investitore ci ragiona in una maniera sensibile, andare a rischiare il 100% del proprio ritorno o il 70% se le cose vanno bene, a fronte di avere un interesse del 15-20% forse per un paio d'anni, non è un investimento salutare. Mm-hmm. Poi chi ama il rischio chiaramente può fare di tutto, però non vedo perché anche per chi ama il rischio doversi andare a finire in una situazione che non ha neppure una deadline sicura, non si sa quando si uscirà, se verrà ristrutturato il debito e in quale situazione andremo a finire. Mi sembra proprio una cosa estremamente speculativa. Che cosa vorrebbe dire Mognon un'eventuale ristrutturazione del debito greco, cioè stabilire, dichiarare definitivamente la bancarotta, quindi fare un po' una conta di tutte le insolvenze che ci sono in circolazione, quindi da quello poi ricominciare con i creditori a stabilire piani di rientro, un po' come è successo con l'Argentina nel 2001? Credo che gli italiani in particolare abbiano ben chiaro come ci si è comportati nei confronti dell'Argentina. La ristrutturazione del debito è un programma in cui si entra in base a certe necessità dell'emittente, in questo caso di un paese emittente, e da cui non si sa bene in come si potrà uscire. Quello che significa una ristrutturazione del debito significa togliere la validità al debito che c'è attualmente e, parole povere, mettersi d'accordo con chi possiede il debito in qualche modo per organizzare e ridare parte dell'investito. Questo è quello che è una ristrutturazione del debito. Poi non ci sono paletti perché, appunto, soprattutto quando si parla di un paese sovrano, le regole vengono un po' fatte al momento e si viene un po' deciso. Per non parlare poi di quei paesi che le regole se le fanno un po' per conto loro, come per esempio continua a fare l'Argentina, ma quella è un'altra storia, non è un paese europeo e chiaramente anche un'eventuale ristrutturazione, anche un'eventuale ristrutturazione di Atene dovrebbe, come dire, sottostare a determinati paletti. Se questo paese vuole continuare a restare nella zona euro, ovviamente paletti delle autorità sovranazionali, immagino, no? Entrerebbero in causa anche, appunto, Germania, Italia, tutti, Francia, tutti quanti quei paesi che hanno una certa importanza all'interno dell'area euro per far mantenere certi paletti. Però rimane comunque da sottolineare che una ristrutturazione del debito non è un procedimento né facile né che facilmente prevedibile. Benissimo. Allora, volevo ritornare un attimo, ci manca un minuto di tempo prima della prima pausa, ma credo che Angelo Drusiani, visto che è dotato di una capacità di sintesi esemplare, ci aiuterà a capire anche come mai ieri Standard & Poor's è intervenuta anche, lo rispieghiamo di nuovo per chi non avesse compreso questa dinamica, sul Portogallo, perché è stato il primo paese ad essere colpito da quello che qualcuno teme potrebbe essere un effetto domino più esteso. Poi parleremo anche dell'Italia, perché ieri c'è stata un'asta di bot semestrali che è un piccolo cenno di tentennamento lo ha manifestato, poi ne parleremo. Drusiani, perché il Portogallo ieri? Perché intanto ha un rapporto deficit-PIL molto alto, cioè il deficit annuale di bilancio rispetto al prodotto lordo è molto alto e in più ha delle prospettive di crescita non certamente brillanti, perché l'attività industriale nel Portogallo, così come nella Grecia, occupano degli spazi molto modesti. Viceversa l'Italia vive condizioni molto migliori, quindi il primo paese che soffrirà dopo la Grecia sarà sicuramente il Portogallo e poi forse la Spagna. I rendimenti dei titoli di Stato portoghesi su che livelli stanno viaggiando? A due anni sono al 5,5%, quindi rendono quasi 5 punti in più rispetto alla Germania, mentre a 10 anni sono al 5,64%, quindi le problematiche si fissano quasi tutte nelle durate brevi, perché poi nel periodo lungo i mercati sono convinti che la situazione verrà risolta. Beh, però tra il 5% dei biennali portoghesi e l'oltre 20% di quelli greci, ancora diciamo abbiamo dei margini per sperare che quantomeno possa essere per qualche settimana ancora un po' più tranquillo il Portogallo, a meno che non dobbiamo aprire anche quest'altro fronte. E Salva Danaio stamattina ritorna sulla crisi greca, come hanno fatto numerose nostre altre trasmissioni, l'ha fatto Oscar Giannino questa mattina, ma noi oggi andiamo a curiosare nel portafoglio degli investimenti delle famiglie italiane che sono all'ascolto per capire se hanno magari un portafoglio un pochino sbilanciato su questi titoli di Stato che stanno vivendo momenti di alta tensione e quanto sono preoccupate anche le famiglie italiane rispetto a questa crisi e come muoversi anche da qui in avanti, perché c'è qualcuno che ha tentato anche di fare un intervento un po' aggressivo, un investimento un po' aggressivo su questi titoli di Stato che noi stiamo scoraggiando invece molto intensamente, perché ribadisco, non vorrei che succedesse come con Alitalia di due anni fa, con le grandi promesse di salvataggio, e molti si sono ovviamente avventurati in quell'investimento e adesso ne stanno pagando ancora le conseguenze, perché non hanno, credo, ricevuto alcun tipo di rimborso. C'è stato il famoso programma di conversione in titoli di Stato, dovremmo ritornare su quell'argomento, non sappiamo che fine abbia fatto, ma il tema è che se anche arrivasse un salvataggio delle autorità sovranazionali della Grecia è bene stare alla larga da questi prodotti, perché intanto non sappiamo se questo dovrà arrivare o meno, per cui per non saperne leggere né scrivere intanto stiamo alla larga da questi prodotti. Poi Maximilian Cellino, che intanto ci ha raggiunto nel frattempo, che non si dica che almeno i giornalisti un pochino loro dovere lo avevano fatto in tempi non sospetti. Che dici? Ma sì, è chiaro che investire in questo momento in un titolo di Stato greco fa gola a molti, però ecco, a loro rischio e pericolo. Ovviamente se proprio non potete farne a meno, cercate di non investirci gran parte del esatto. vostro portafoglio. E infatti, dico una cosa banale, c'è però Fabrizio che ci chiede: se voglio investire una piccola somma in bond greci, la mia banca mi bloccherà? Io mi auguro che la banca lo faccia, che non abbia la tentazione magari di scaricare sulla clientela questi titoli rischiosi, a parte che le nostre banche non ne hanno tanto in portafoglio, quindi magari non avranno neanche la tentazione di farlo. Beh, credo che però, comunque se uno proprio vuole ci sono molti operatori online, esattamente, si acquistano tranquillamente nettamente i titoli greci sul mercato secondario. Ricordo ancora una volta, può essere banale, ma non ci investite il 50% del vostro, della vostra ricchezza, altrimenti dopo poi abbiamo magari poi sono le stesse persone che fra qualche mese noi non ci auguriamo, ma insomma in caso di esito negativo per la Grecia vengono a lamentarsi perché hanno in mano un bond greco. Insomma, bond greco, cioè, perché cerchiamo di non cercarcela, ecco, perché la banca non ha adeguatamente protetto dal rischio, ma insomma, quindi noi vi raccomandiamo appunto di stare molto attenti in questo frangente. Sentiamo Marco da Firenze. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Ci dico. Io sono in possesso di due ETF obbligazionari della Lyxor. Uno è a 1-3 anni e l'altro è legato all'inflazione. Obbligazionari, mi scusi, sì. Mi interrompo un attimo, sono obbligazionari con titoli di Stato dentro, vero? Con titoli di Stato, solo titoli governativi. Sì, governativi. Sia nell'uno, cioè quello con scadenza 1-3 anni, sia l'altro che è legato all'inflazione, ho visto che c'è una percentuale del 4% di titoli greci. Che è un po' la percentuale che ho notato anche in altri fondi obbligazionari governativi. Non credo che ci siano percentuali più alte nell'ambito dei portafogli. Allora, l'ETF... Faccio magari concludere la domanda a Marco. Marco? No, no, la domanda è quella, insomma, che cosa fare, perché insomma è un titolo che sono comunque dei fondi obbligazionari, tra l'altro con rating 4-5 stelle. Per tutto quanto il fondo, naturalmente, quindi naturalmente, non è... ecco. Allora Marco, sì, ho investito in fondi comuni ed ETF, cosa rischio? È una delle domande a cui rispondi Maximilian sulla tua paginetta di la prima cosa da chiarire è che un fondo, un ETF, è una cosa ben diversa da un titolo di Stato. Se la Grecia fallisce, uno ha in mano un titolo di Stato, non prende niente, oppure può incominciare a pensare a una ristrutturazione del debito, a prendere un concambio o un parziale rimborso come è avvenuto per l'Argentina. Per i fondi la cosa è diversa, non è che uno rischia di perderci tutto, può perdere qualcosa in relazione a quanto quel fondo ha investito in Grecia. Ora, lei è abbastanza fortunato perché sugli ETF è possibile capirlo, più difficile magari è difficile capirlo sui fondi comuni. Magari può qualche secondo per spiegare che un ETF deve seguire un determinato indice, un determinato benchmark, e se su questo benchmark ci sono i titoli greci, come in un obbligazionario di titoli di Stato europeo, è chiaro che ci sono i titoli greci, ci sono quelli italiani, ci sono quelli francesi, quelli spagnoli. È chiaro che questo qui risentirà un po' anche della performance negativa dei titoli greci. Attenzione, come ha risentito della performance fortemente positiva dei titoli greci nel 2009. Questo non ce lo scordiamo, ecco, non va scordato. Lei diceva, è stato molto bravo, è andato a vedersi la percentuale, questa è la percentuale del 4%. È chiaro che la perdita sarà misurata a questo peso del 4%. Io non credo che ci sia da farsi prendere dal panico con uno strumento del genere. Rispetto a un fondo comune con la gestione attiva, qui non è che si possa togliere quel 4%. Esatto. Mentre invece su un fondo comune obbligazionario può darsi che ci siano dei fondi. In questo caso si può chiamare il gestore, digli cosa stai facendo come ora, fondo. Chiamare il gestore è molto difficile. Però chiamare la banca che ce l'ha distribuito, che ce l'ha collocato, che ce l'ha venduto questo prodotto, magari sì. Allora, la prima cosa da fare in questo caso, se uno ha un consulente o se si è fatto assistere dalla banca, è il caso di fare molte domande al consulente. Questo è il consulente, soprattutto il consulente indipendente, è pagato, per cui bisogna domandargli quanto i fondi e gli altri strumenti sono esposti sulla Grecia. Se uno adotta il fai da te, c'è comunque una maniera di andare a vedere cosa esiste, cosa c'è nel fondo comune. Sto parlando di fondi comuni, gli ETF sono più bloccati. Fondi comune bisogna vedere un po' come agisce il gestore. E questo è vedere i rendiconti annuali e semestrali che le banche e le SAGR devono pubblicare. Lì ci sono scritte tutte le posizioni di ciascun fondo. Attenzione, ovviamente questo è aggiornato al 31 dicembre 2009, uno se ne fa poco e niente. Esatto. Ci sono però dei portali indipendenti, CFS Rating, Morningstar, per esempio, ne cito due, i principali, che aggiornano, diciamo più o meno con una cadenza mensile, le principali 10 posizioni. Quindi potrebbe esserci stato un fondo obbligazionario governativo che a novembre aveva un'esposizione sui titoli greci, faccio una ipotesi del 5%, ma certo, che potrebbe averla progressivamente ridotta, essere arrivati all'1% a marzo, e quindi c'è questa, come dire, situazione aggiornata che voi, può anche rassicurare un po'. Voi potete vedere lì le prime 10 posizioni, non tutte le posizioni, però se non è nelle prime 10 posizioni più importanti, il titolo può avere un peso abbastanza contenuto, e quindi si rischia una perdita si rischia una perdita dell'1, del 2%, faccio per dire, che per un fondo obbligazionario è abbastanza rilevante, però non è un evento così importante come un default di un titolo che uno materialmente ha in mano. Poi andremo anche alle polizze, perché hai dedicato un punto anche a questo tipo di investimento. Vorrei tornare agli ascoltatori, ritornare anche ai nostri ospiti, ad Angelo Drusiani, Andrea Mognon. Sentirei Franco da Torino, perché ovviamente abbiamo parlato di rischio contagio, abbiamo tanto parlato nei mesi scorsi dei PIGS, i paesi ad alto rischio appunto in Europa, quindi il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia e la Spagna. C'era anche una doppia I, c'era anche l'Italia per qualche periodo, c'è stata anche l'Italia in questo acronimo. Adesso per fortuna siamo usciti, chissà che non ci dovremmo rientrare, a giudicare dall'asta dei bot semestrali che si è realizzata ieri. Ma oggi adesso mi soffermerei sull'Irlanda con la domanda di Franco da Torino. Franco, se non sbaglio, lei voleva intervenire su questo, giusto? Sì, buongiorno. Senta, io un paio di anni fa ho comprato dei bond irlandesi al 4% con scadenza 2014. Sì. L'ho comprati sotto, diciamo, sotto la pari, e adesso appunto vorrei sapere, visto che è una scadenza abbastanza ravvicinata, e anche perché le voci dicono anche che l'Irlanda probabilmente sarà un effetto domino, seguirà, non so, dopo il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda. Mamma mia, vorrei sapere, ecco, se è un bond a rischio, se è meglio, diciamo, che, diciamo, che me lo venda. Oppure può resistere, sì. Sì, un'altra cosa, ho visto proprio una cosa recente. Io ho acquistato dei BTP, quindi parliamo d'Italia, la scorsa settimana, un BTP con scadenza 2020 al 4%. L'ho visto adesso, diciamo, su quotazione di borsa, che ha perso un punto, sì, cioè un punto nel giro di, diciamo, in pratica l'ho comprato venerdì, oggi siamo dopo 3-4 giorni. Sì. Ecco, quindi anche i BTP stanno soffrendo, diciamo, questo effetto, diciamo, della Grecia. Franco, le rispondiamo con calma, suddividendo ovviamente la sua domanda in due e lasciando proprio per Drusiani e Mognon. Drusiani, le assegno la parte irlandese. Cosa pensa dell'investimento fatto 2 anni fa, in tempi non tanto sospetti rispetto alla crisi, perché in quel momento nella bufera c'erano le banche, c'era la borsa, e anzi, diciamo che l'obbligazionario era stato visto proprio come il porto sicuro, e adesso un po' l'atteggiamento sta cambiando. L'Irlanda e il rischio domino? L'Irlanda ha ancora un rating discreto, perché è ancora doppia, quindi al momento non soffre tantissimo, però sicuramente fa parte di quel gruppo di paesi che hanno dei problemi a livello di rapporto fra deficit PIL, cioè debito pubblico annuale e prodotto lordo che riescono a costruire anno per anno. Attualmente, ad esempio, la durata quadriennale, cui faceva riferimento l'ascoltatore, paga quasi 4 punti in più di rendimento rispetto alla Germania, quindi siamo a poco sopra la pari come prezzo, come valore del titolo sul mercato. Quali possono essere le prospettive? Indubbiamente, se dovessero perdurare ancora a lungo queste trattative tra UE, Fondo Monetario e Grecia, probabilmente avremo ancora nei prossimi giorni prezzi, non dico in caduta, però sicuramente inferiori a quelli di oggi, perché il mercato è molto incerto, il mercato poi è pieno di speculatori, quindi la situazione si presta al loro gioco in maniera molto importante, quindi se la propensione al rischio dell'investitore non è molto alta, io credo che valga la pena ridurre l'esposizione. Però sono anche convinto che l'Irlanda non soffrirà tantissimo, cioè non correrà rischi di default di cui si parla per quanto riguarda la Grecia, e quindi da qui al 2014 secondo me la situazione si dovrebbe rimettere in piedi. Però insomma monitoriamo attentamente questo investimento. Allora, prima di andare a Morris da Ravenna, che ci permette anche di spiegare se corre qualche pericolo anche un nostro altro tipo di investimento che potrebbe essere una polizza, volevo chiedere appunto ancora a Morris un attimo di pazienza. Volevo tornare ad Andrea Mognon, gestore di Banca Zarattini, per esprimere qualche considerazione sulla seconda parte del nostro ascoltatore precedente, che dice diceva, io ho appena fatto freschissimo un investimento in BTP, in titoli quindi del tesoro poliennali, e ho visto che però già nel giro di pochissimi giorni il rendimento è sceso di un punto percentuale, quindi magari se ci può tecnicamente anche spiegare le ragioni per cui questo può essere avvenuto, e se vuole anche esprimere una riflessione rispetto invece all'asta dei bot a 6 mesi che il tesoro ha realizzato ieri e che ha raccolto 9 miliardi e mezzo di euro, ma probabilmente per il tesoro ci sarebbe stato bisogno di chiedere qualcosa in più, ma l'asta è stata piuttosto prudente. Perché? Allora, comincio dalla parte che riguarda proprio il BTP e questa emissione dell'ascoltatore. In questo caso sì, c'è stato un deprezzamento abbastanza interessante, un 1%, ma dovuto principalmente al fatto che il prodotto è molto lungo, è un decennale, per cui è molto più sensibile all'andamento dei tassi di interesse. In pratica, con i problemi che ci sono stati sulla Grecia, un po' tutti quanti i paesi considerati meno sicuri hanno avuto un po' di problemi: Spagna, Italia, Irlanda, a parte appunto Portogallo e Grecia. E in questo caso la differenziale di rendimento che è andato ad aumentare rispetto ai Bundes ha impattato sul prezzo, soprattutto perché questo differenziale va spalmato su 10 anni, per cui più lungo è un titolo, un'emissione, più è sensibile all'andamento dei tassi e nel nostro caso anche all'andamento dello spread e della differenza che si paga dovuta al rischio. Per cui io non vedo un pericolo ancora sull'Italia, perché comunque parliamo di uno dei paesi principali dell'Unione Europea e comunque di un paese che ha una storia differente rispetto a Portogallo, rispetto alla Grecia. La grande variazione che c'è stata è dovuta principalmente al fatto che questa era un'emissione con una scadenza molto lunga. L'asta di ieri invece, Mognon? Per quanto riguarda l'asta invece, io penso che sia normale che in queste situazioni l'asta di titoli di debito sia un po' problematica, soprattutto per paesi che comunque, anche se in una situazione tutto sommato tranquilla, sono legati all'andamento dei paesi cosiddetti PIGS, insomma dei paesi del sud dell'Europa. La situazione del debito dell'Italia non è una situazione tranquilla, però diciamo che ha dalla sua il basso indebitamento privato ha una situazione debitoria importante ma stabile, e soprattutto gran parte del debito è comunque detenuto da investitori italiani, per cui è meno soggetta alla speculazione rispetto ad altri paesi più piccoli. Non a caso i paesi che hanno avuto problemi sono la Grecia, il Portogallo, adesso si parla dell'Irlanda. Poi anche la Spagna può vedere un po' di volatilità sui propri titoli. La volatilità ce l'aspettiamo, però avere veramente preoccupazione sull'Italia al momento attuale è ancora un po' prematuro. Poi è chiaro che ognuno accetta il suo rischio. Vedremo nelle prossime settimane. Moris da Ravenna, veniamo a lei, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda inerente a una polizza con gestione separata. Sì. Praticamente 2 anni fa sono riuscito, per intuito, per fortuna, a uscire una settimana prima che ci fosse il crollo Lehman, e decidi di investire una buona parte degli investimenti dei miei in queste polizze. Quello che mi chiedevo è se fosse il caso di uscire magari in maniera parziale sino al momento, qua a metà maggio, quando ci sarà la decisione della Banca Centrale Europea di aiutare la Grecia. Perché vuole uscire? Perché che tipo di polizza è, Moris? Una polizza che di quelle con il 2% garantito, con gestione separata, non so se posso dire di chi è il... Sì, no, ma il problema è capire come è costruita e se quindi ha qualche relazione comunque con l'obbligazione del governo greco. Allora, perché da quello che mi risulta, che ho guardato online, non sono esposti, non dovrebbero essere esposti è della Generali, e mi hanno detto telefonicamente che investe prevalentemente in titoli italiani. Quindi, beh, si può sicuramente intanto controllare, Moris, proprio nel dettaglio, il prospetto informativo di questo, no, di questo prodotto. Si parla di obbligazioni, titoli di Stato, ma non viene menzionato il singolo Stato, quindi è un po', mi devo fidare un po' di quello che mi viene detto. In realtà è bene che invece ci sia qualcosa di scritto un po' più dettagliato. Maximilian, allora, se un ascoltatore avesse il dubbio che la sua polizza, come nel caso di Moris, sia una polizza a rischio, perché anche qualche mese fa, insomma, molti ascoltatori che seguivano le nostre trasmissioni erano molto tranquilli perché pensavano di aver acquistato alla posta delle polizze del tutto protettive dei propri investimenti, poco più che rischiose di un certificato di un buono fruttifero, e invece in molti hanno scoperto che avevano delle polizze agganciate a titoli Lehman Brothers. E quindi, per chi avesse un sospetto di questo tipo per il proprio investimento attuale, cosa può fare? Allora, intanto vorrei scindere il discorso della performance della singola polizza dal discorso del rischio di perdere proprio il capitale, il capitale investito. La performance dipende dall'indice che si segue. Paradossalmente, se è un indice azionario e le azioni crollano, è chiaro che anche quella polizza avrà un rendimento negativo se non c'è qualcosa di garantito. Il problema che mi sembra più interessante affrontare è quello di capire se si rischia qualcosa proprio di non avere indietro il capitale o di avere qualche altro problema. In passato c'è stato, tu ricordavi il problema di Lehman Brothers, io ti aggiungo anche il problema delle banche islandesi, perché c'erano molte polizze che erano legate, avevano come sottostante una banca islandese. Cosa succede? Che se il sottostante fallisce possono esserci dei problemi. Un paio di banche islandesi erano fallite, come è fallita Lehman Brothers, e avevano dato dei problemi alle polizze. Ora, non è molto semplice capire quante siano in questo momento coinvolte e sulla Grecia. Infatti, adesso sicuramente comincerà un po' di conta. A titolo informativo dico che sulle le index linked, le 1433 index linked che oggi sono riportate sul sole. Ce ne sono circa un centinaio che avevano a che fare con Lehman e con le banche islandesi. Ci è voluto qualche settimana per capirlo, ci è voluto anche un'indicazione esplicita della NIA alle singole assicurazioni che comunicassero se la società era la polizza aveva qualcosa a che vedere con l'Islanda o con Lehman. Ora, l'impressione, ma questa è un'impressione personale, è che siano molte meno le polizze che hanno a che fare con la Grecia, per diversi motivi. Intanto Lehman per molti era anche agente di calcolo, cioè la banca depositaria più o meno di queste polizze. E poi Lehman era una banca enorme, la seconda, la terza banca del mondo, d'affari del mondo, per come lo si può vedere. E anche le banche islandesi erano molto importanti, perché lì la finanza era molto sviluppata, molto più sviluppata di quanto era in Grecia. Per questo lo vedremo nelle prossime settimane, ma io mi aspetto che ci siano molte meno polizze coinvolte. Speriamo che non ce ne sia nessuna. Di fatto, comunque, un segnale interessante potrebbe essere che l'ANIA richiami tutte le società ad esprimere chiaramente, a comunicare ufficialmente se hanno dei prodotti in carico in casa con delle esposizioni sui titoli greci. Va detto anche che dallo scorso autunno alcune regole sono cambiate, perché anche la stessa società che emette la polizza, in questo caso la Generali, ma altre società, sono responsabili della polizza, cosa che non era in precedenza, perché responsabile era soltanto chi aveva il sottostante. Allora, noi abbiamo terminato Salvadanaio questa mattina, speriamo di aver dato quantomeno una rosa sufficiente di raccomandazione ai nostri ascoltatori. State lontani per favore adesso dai titoli greci, o se proprio vi volete avventurare su questo terreno di investimento, fatelo per una porzione molto modesta del vostro patrimonio, quindi un tentativo veramente contenuto. Per il resto, poi, su quello che succederà nei prossimi giorni noi ritorneremo puntualmente. Grazie a Maximilian Cellino, ad Angelo Drusiani e ad Andrea Mognon per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, nei prossimi 2 giorni con voi ritorna Valentina Furlanetto, noi ci risentiamo lunedì. A voi tutti, buona giornata.